America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Bombardamenti a Homs, bombardamenti da parte del governo siriano, delle forze armate siriane in questa città che si ribella alla dittatura di Damasco. Sembra che siano state uccise altre 50 persone durante un attacco continuato in vari quartieri della città. Conferma questo attacco che la Siria non intende assolutamente lasciarsi intimidire dalle minacce delle Nazioni Unite, dalle minacce della maggioranza dei paesi membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, perché è ovvio, la Siria si sente forte perché ha l'appoggio della Russia e l'appoggio della Cina. Ricordiamo che sabato c'è stato un veto da parte di Pechino e di Mosca su una proposta di pace in Siria avanzata dalla Lega Araba, pensate, neanche dagli Stati Uniti, ma c'è stata questa reazione così dura, molto dura, da parte di Russia e Cina, una reazione che devo dire preoccupa gli Stati Uniti. Dopo quel che è successo ieri, hanno deciso di chiudere la loro ambasciata a Damasco, hanno rimpatriato lo staff dell'ambasciata, e in questa situazione in cui obiettivamente l'Occidente ha preso atto, ha reagito duramente davanti a questa posizione di Cina e di Russia. Ebbene, ieri che cosa è successo? Che il ministro degli esteri, Sergei Lavrov, ha detto che l'Occidente è isterico. Hanno reagito a questo veto di Mosca ai limiti dell'isterismo. Devo dire che questa posizione di Lavrov forse mi preoccupa ancora di più del veto dell'altro giorno. C'è qualche cosa che sta capitando nel dialogo fra paesi che sono in qualche modo allineati con il totalitarismo, con le dittature. Ovviamente in questo caso la Russia, Mosca, appoggia la Siria. Improvvisamente, in qualche modo, sembra di essere tornati un po' nell'atmosfera della guerra fredda. L'aspetto inquietante è che quel che è successo va anche visto un po' in chiave delle elezioni russe, elezioni che si terranno ai primi di marzo. Vladimir Putin sa che vincerà, ha forzato la mano per mettere sul tavolo le sue carte totalitarie per poter poi rivendicare mano libera una volta di nuovo insediato al Cremlino. Vediamo provocazioni ogni giorno, per esempio sul fronte del gas. E la controprova della divergenza fra due filosofie politiche poi sta nel fatto che una posizione come quella di Putin o di Medvedev in un contesto di democrazie occidentali, immaginate se questo fosse successo per esempio durante le primarie americane, ecco, in un contesto di democrazie occidentali o di trasparenza avrebbe portato danni di immagini irreversibili ai candidati schierati dalla parte di chi commette efferatezze. E in Russia invece naturalmente non ci saranno conseguenze di nessun genere. Vladimir Putin sarà rieletto. Our preferred solution here is diplomatic. We're going to keep on pushing on that front, but we're not going to take any options off the table, and I've been very clear, we're going to do everything we can to prevent Iran from getting a nuclear weapon and creating an arms race, a nuclear arms race in a volatile region. Se la partita diplomatica in Siria si fa complessa, e gli Stati Uniti hanno dichiarato che vogliono risolvere la questione in modo diplomatico, non immaginano degli attacchi di missili come quelli che ci sono stati per esempio nei confronti della Libia, e comincia ad esserci una preoccupazione anche sul fronte iraniano, e le due cose sono direttamente legate, perché nel momento in cui dovesse cadere Assad in Siria, il vento della primavera araba arriva direttamente verso l'Iran, e quindi ci sarebbe davvero uno sviluppo, diciamo, positivo dal punto di vista dell'Occidente. Invece in questo modo si blocca tutto. Ieri in un'intervista televisiva al Today Show a Matt Lauer, Barack Obama ha detto un paio di cose importanti. Ha detto che gli Stati Uniti sanno quanto tempo ci vuole a partire da questo momento perché l'Iran possa avere la bomba atomica. Non ha detto quanto tempo ci vorrà, ma ha detto che gli Stati Uniti lo sanno, e ha anche detto che il negoziato diplomatico va avanti, ma che tutte le opzioni sono sul tavolo nel caso in cui dovesse fallire. Ecco, l'equazione è abbastanza chiara. Gli Stati Uniti sanno quanto tempo ci vuole per il passaggio al nucleare, ma avvertono che se il negoziato diplomatico fallirà, allora si potrebbe davvero passare all'azione. Oggi si vota di nuovo primarie abbastanza importanti in Colorado, primarie in Minnesota, ci sono anche in Missouri, però è un caucus strano, non è una primaria, è un caucus che però avrà i suoi risultati effettivi soltanto fra circa un mese e mezzo, quindi a tutti gli effetti oggi abbiamo Colorado e Minnesota e in Colorado Romney è avanti del 40% rispetto a Santorum, Gingrich al 18%, Santorum rimbalza anche in Minnesota col 29%, Romney al 27%, direi che la novità in questi due stati è che Romney sicuramente avanti in Colorado e tiene in Minnesota, ma rispunta all'improvviso Santorum. Questo conferma l'ipotesi che Santorum potrebbe far bene, ma a un certo punto finirà per ritirarsi, potrebbe diventare un candidato plausibile per la vicepresidenza. Comunque sia, Romney è sempre più forte, ha vinto il Nevada sabato scorso con una maggioranza del 50%, Gingrich secondo al 21%, Paul al 18%, Santorum al 9,9%. Dunque una corsa repubblicana che in qualche modo conferma la forza di Romney e la debolezza progressiva di Gingrich. Ma la storia vera in campo repubblicano di oggi non è tanto sui sondaggi e sul voto di domani, quanto su una polemica nazionale che ha preso improvvisamente fuoco nella mattinata ieri e continua, perché oggi il New York Times mette la storia in prima pagina, e una polemica di fuoco, vi dicevo, sulla pubblicità della Chrysler con Clint Eastwood. This country can't be knocked out with one punch. We get right back up again, and when we do, the world's gonna hear the roar of our engines. Yeah, it's halftime America. And our second half's about to begin. Avete sentito la voce di Clint Eastwood, un eroe americano. It's half time in America, è il primo tempo non solo della partita ma anche per l'America, ve l'ho raccontato ieri. Ecco, cosa sta a significare? Beh, che l'America a questo punto comincerà il suo secondo tempo, è uscita dalla crisi economica, si sta rimettendo in piedi. Il simbolo di questa ripresa è nel settore dell'auto, la pubblicità della Chrysler naturalmente è stata voluta da Sergio Marchionne e in qualche modo riprende un po' il messaggio dello Stato dell'Unione di Barack Obama. Che è successo? Beh, che i repubblicani si sono infuriati, hanno detto che questo è un gioco sporco, che le case automobilistiche, la Chrysler in particolare, sta ripagando i favori avuti da Barack Obama quando il governo americano ha deciso di aiutare la Chrysler dando dei prestiti molto importanti per risollevare i destini di questa casa automobilistica, ma anche della General Motors, e soprattutto cancellando un debito. Karl Rove, vi dicevo, si è infuriato, ha detto che questo è un colpo basso e che è politica spicciola. In realtà, a questo punto, dobbiamo dirlo, il colpo è di Marchionne, il colpo è di Obama, perché Clint Eastwood è un simbolo di un mensch, diciamo di uno tipico repubblicano, di un uomo duro, che però in questi ultimi tempi ha cambiato un po' idea. E dunque, ecco che dal punto di vista del presidente Barack Obama, questo spot di Chrysler, che è stato visto da 100 milioni di persone, non poteva avere un effetto migliore. I repubblicani si lamentano, ovviamente incassano il colpo, e chi gioisce, anche perché quando si parla della propria pubblicità è sempre un fatto positivo, è di nuovo Sergio Marchionne. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, siamo alla vigilia della Fashion Week a New York e questa sera si tiene un party per raccolta fondi proprio, guarda caso, per la campagna elettorale di Barack Obama, che devo dire sta avanzando mica male. In un sondaggio nazionale si trova avanti a Romney. Anna Wintour, direttrice di Vogue, Scarlett Johansson presenteranno la linea di vestiti disegnati per l'occasione da diverse celebrità, tra cui la neomamma Beyoncé. E di Beyoncé vi faccio ascoltare Countdown. Oh.